Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Lo sentirete fra poco nei titoli. 40 anni fa, in queste ore, esattamente in queste ore, volavano verso la Luna. Ma ascoltiamo insieme allora i temi di questa puntata di Mebius. Se la mamma è cubana e il papà è egiziano, il bambino può avere problemi di apprendimento? No. La ricerca ci rivela che è esattamente il contrario. Il bilinguismo accresce le funzioni cognitive. Per l'Enea, la strategia principale per fronteggiare i cambiamenti climatici è l'efficienza energetica e l'avanzamento tecnologico. In queste ore, 40 anni fa, i primi uomini volavano verso la Luna. Breve speciale di Mebius dedicato a questo anniversario. Proclamiamo il vincitore del nostro concorso «Tu cosa avresti detto al posto del comandante Armstrong?» «Ma sulla Luna conviene tornarci?» E infine, le cosmo-invenzioni. Quelle studiate per lo spazio e poi usate sulla Terra. A Spoleto Scienza si è discusso della vita come fenomeno lontano dall'equilibrio. Fra poco allora dedicheremo uno spazio abbastanza ampio della nostra trasmissione al quarantennale dello sbarco sulla Luna, ma in apertura parliamo di tutt'altro. È vero, da tempo si dice che i bambini cresciuti in un ambiente familiare bilingue possono presentare delle difficoltà cognitive. Chiara Albicocco ora vi segnala una ricerca che smentisce questa immagine. Mamma russa e papà egiziano, mamma italiana e papà sloveno. Ecco, provate a pensare a che confusione può avere in testa un figlio che fin da piccolo è bombardato con accenti e idiomi di lingue diverse. Ecco, potrebbe verificarsi un ritardo cognitivo? Niente affatto, sembra rispondere la ricerca scientifica. Infatti è appena stato pubblicato un articolo apparso sulla prestigiosa rivista Science che ci rivela che il bambino che deve destreggiarsi tra la lingua paterna e quella materna in realtà sviluppa un'acutezza e uno stato cognitivo superiore a quello dei coetanei monolingui. Ecco, l'articolo è stato firmato da Jacques Meller, che è nostro ospite questa sera e che ci racconterà tutto su questa scoperta prodotta presso i suoi laboratori. Intanto buonasera Meller. Buonasera. Prima vorrei dire che il mio italiano non è perfetto e mi scuso preso di lei e di ascoltatori. Va bene, non c'è problema, non si preoccupi, la capiamo benissimo. Professore, lei è docente di neuroscienze alla SISSA di Trieste, la SISSA è la Scuola Internazionale Superiore degli Studi Avanzati di Trieste, e con i suoi collaboratori ha svolto uno studio sul bilinguismo infantile. Allora, le conclusioni a cui siete giunti sono molto importanti, ma prima ci può spiegare come siete giunti a queste conclusioni, che tipo di esperimenti avete fatto e quanti anni avevano i bambini che avete sperimentato? Il lavoro è stato completato da Agnès Kovács, che è il primo signatario del paper, che era la mia studentessa di PhD e che ha fatto due importanti esperimenti, uno con bambini di 7 mesi e quello che viene adesso riportato in questo secondo lavoro nella rivista Science, e fatto su bambini di 12 mesi. Allora, quello che noi abbiamo pensato è che i bambini da molto molto piccoli distinguono le differenti classi di lingue sulla base del ritmo che queste lingue hanno. Per esempio il giapponese ci sembra un po' come una mitragliatrice nel ritmo, mentre che una lingua come l'italiano sembrava abbastanza isocronica, con unità che si ripetono a un ritmo che si capisce subito. Noi abbiamo visto che i bambini possono discriminare queste piccole di bambini, parlo di bambini di qualche giorno fino ai 3 mesi, 4 mesi, distinguono questi ritmi molto bene, e poi da 4 mesi distinguono all'interno di due lingue che sono della stessa classe ritmica, per esempio il greco dell'italiano, che hanno una ritmicità similare. Abbastanza simile. Sì, ma comunque le unità fonologica, diciamo, dei suoni, sono diverse. Allora i bambini già distinguono queste lingue. Quando un bambino è nato in una casa bilingue, e questo che è quello che mostriamo è nel vostro caso, questi bambini sono, hanno grande facilità, diciamo, per imparare a fare dei compiti abbastanza complessi. Noi le presentiamo uno schermo con due quadratini bianchi, lo schermo è tutto nero e ci sono un quadratino bianco a destra e a sinistra dello schermo. E nella metà c'è una specie di disegnino in colore che apparve e che il bambino deve fissare. Sì. E infatti il schermo è un modo di scoprire che sta guardando il bambino, è quello che in inglese si chiama un eye tracker, una forma di misurare i movimenti oculari degli occhi. Delle occhi, e il bambino, si vuole vedere un pupazzo, deve andare a uno dei quadratini. Ok, in sintesi avete mostrato al bambino di 12 mesi uno schermo nero con un quadratino bianco a destra e uno a sinistra. Poi lo sperimentatore pronunciava delle parole, cioè degli stimoli verbali, con una precisa struttura linguistica, cioè con alcune sillabe che si ripetevano. E il bambino doveva voltare lo sguardo a destra e a sinistra a seconda dello stimolo corrispondente. Se il bambino volgeva il volto dalla parte corretta dello schermo, appariva un pupazzino. Lo scopo dell'esperimento era testare appunto la capacità dei bambini di anticipare il lato dello schermo su cui sarebbe apparso il pupazzino in seguito allo stimolo sonoro. Che struttura avevano le parole che avete fatto ascoltare ai piccoli? Ci sono due tipi di parole. Sì. Una parola che è del tipo mo, mo, le, ga, ru, ru, fi, sa, sa. Con le sillabe che si ripetono in alcune posizioni. Mo, le, la ripetizione viene alla finale. Ok, A, B, B, possiamo dire. A, B, B, perfetto. Invece ci sono altre parole come mo, le, mo, che hanno una struttura A, B, A. Perfetto. Allora, per vedere il pupazzo, un bambino deve imparare che deve andare a sinistra per gli A, B, B e a destra per le A, B, A. E quindi quando voi fate ascoltare il suono della parola, controllate il movimento oculare del bambino se guarda a destra dello schermo o a sinistra dello schermo perché appaia il pupazzo. Esatto. Che tipo di spiegazione ci può essere dietro a questa maggiore acutezza di velocità di comprensione nei bambini bilingue? Quello noi l'abbiamo attribuito alle funzioni esecutive. Le funzioni esecutive sono bene conosciute da molto tempo nelle neuroscienze, perché noi sappiamo che c'è un'area specifica del cervello che organizza la nostra condotta. Per esempio, se uno ha 10 chiavi, e deve andare a casa o deve andare nell'ufficio, eccetera, in genere si seleziona molto bene quale chiave uno utilizza per entrare senza neanche pensare. Mm-hmm. Ma molte volte della gente torna a casa stanca la sera, fa errore, utilizza l'ultima chiave che ha utilizzato. Deve fare diverse prove per azzeccarla. Esatto. Quello mostra, la teoria, è che noi abbiamo una serie di risposte parallele che competono per vedere chi è quella che si produce in un momento dato adeguatamente, no? E noi pensiamo che uno diventa più proficiente quanto più esperienza ha. Quindi il bambino bilingue in realtà sviluppa più esperienza, quindi non è che sia più intelligente, ma esatto, ha un'elasticità mentale maggiormente abituata. Esatto, è quello che diciamo noi sui bambini. Grazie professore quindi di averci tranquillizzato, buon lavoro e alla prossima ricerca. Buonasera. Te le comunicherò con molto piacere. Parleremo più avanti di Spoletto Scienza più ampiamente. Da questo appuntamento svoltosi una settimana fa e dedicato al tema dell'energia, vi propongo ora una riflessione emersa dall'intervento di Luigi Paganetto, presidente dell'ENEA, la struttura più grande che abbiamo in Italia impegnata nel campo delle energie alternative e dell'efficienza energetica in genere. Quando si parla di interventi per contrastare gli effetti climatici, si ha spesso la sensazione che una strada inevitabile sia quella di una riduzione degli standard di vita nei paesi avanzati. Luigi Paganetto ha voluto subito proporre uno scenario diverso. Se diminuissimo il tasso di sviluppo del reddito, avremmo minori emissioni, e questo è fuori di dubbio che sia, ma non è detto, io credo, che occuparsi del cambiamento climatico significhi necessariamente pensare a uno sviluppo meno sostenuto del reddito. Ma perché pensare che necessariamente occuparsi della climate change può significare una riduzione del reddito? Può essere anche un'opportunità di sviluppo. E perché? Perché qualunque sia la scelta che si fa rispetto al modo di gestire le emissioni, credo sia necessario pensare a una crescita del cambiamento tecnologico che è fondamentale per assicurare qualunque soluzione si voglia. E insieme al cambiamento tecnologico c'è come conseguenza un effetto sulla crescita. Dico brevemente che noi oggi ci troviamo in una fase difficile dell'economia. Sappiamo anche che la crescita degli anni 80 è stata trainata proprio dal cambiamento tecnologico. Quella volta fu cambiamento tecnologico della ICT, cioè Information Communication Technologies. L'idea che possa essere la prossima fase di crescita tirata dalla Energy Technologies non è un'idea soltanto accademica, può essere un'idea concreta. Una condizione essenziale quindi è seguire la strada dello sviluppo tecnologico, che però deve anche muoversi su una strada reale, cioè non può esistere come fine a se stesso, deve agganciarsi insomma a processi economici concreti. E infatti così prosegue nel suo ragionamento sempre Luigi Paganetto. Che cosa succede secondo l'International Energy Agency di qui al 2030? C'è un raddoppio della domanda di energia, ma guarda un po', questa domanda di energia cresce, ma cresce con l'85% del totale, che è un 85% di domanda che arriva dai paesi emergenti. C'è un punto che io vorrei sottolineare, che questo aumento della domanda, bene, è chiaro che questi paesi che hanno bisogno di maggiore energia per svilupparsi dedicano, hanno risorse importanti, sia l'uno che l'altro di questi grandi paesi, nel carbone. La produzione di energia dal carbone è una produzione che può dare ottimi risultati se si riesce a migliorarla molto tecnologicamente, ma qui le idee dei buoni progetti ci sono, insomma basta mettersi in moto. Altro esempio che ha portato Paganetto è quello del petrolio consumato dal settore dei trasporti, stiamo parlando del 30% dei consumi. Ebbene, anche in questo caso si può ottenere molto con l'avanzamento tecnologico. Questi tempi molto difficili che stiamo attraversando sono abbastanza difficili perché si capisca insomma che bisogna cambiare rotta, vedremo. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Pronti ora perché siamo al nostro gioco e quindi il quiz. La domanda è la seguente: una barca si muove in acqua e fra lo scafo e il liquido si genera un attrito. Qual è la differenza con l'attrito che si stabilisce fra un corpo che si muove sulla terra, per esempio un pneumatico sulla strada? Cioè fra l'attrito acquatico, chiamiamolo così, e quello terrestre, che differenza c'è, per dirla semplicemente? Tre possibilità come al solito. La prima: nell'attrito acquatico non si sviluppa calore, e ci scriverete calore. 2. In acqua l'attrito è molto inferiore a quello su terra, ci scriverete inferiore. Terza e ultima possibilità, l'attrito sulla terra è alto quando il corpo inizia a muoversi, ma poi diminuisce, in acqua è esattamente l'opposto. E ci scriverete opposto. Ci scriverete con il solito SMS al 349-238-6666. Il libro che si vince è Destinazione Luna, dal primo sbarco dell'uomo alle future colonie, scritto da Piero Bianucci e Mario Di Martino, edito dal gruppo B, e adesso appunto di Luna stiamo per parlare. In collaborazione con IBS.it. Chiara Bicocco, ciao. Buonasera Federico, buonasera a tutti. Sei qui con me per gestire questa parte un po' lunga, insolitamente lunga, insomma, nella come porzione dedicata a un solo tema della nostra trasmissione, che riguarda che celebra il grande anniversario, sì, tra io, pochissime ore. Io dicevo all'inizio che esattamente in queste ore stavano per e diciamo che in queste ore erano in viaggio, stavano per. Allora, la cosa a cui possiamo cominciare è il nostro concorso. Ricordo ai nostri ascoltatori, perché certo, non l'avesse sentito, insomma, che abbiamo fatto una joint venture, una collaborazione con la rivista inglese New Scientist, che ha lanciato questo concorso che secondo noi sembrava, insomma, piuttosto divertente. Dal titolo Vinci la Luna, vinci un pezzetto di luna in realtà, mettendoti al posto di Neil Armstrong e pronunciando qualcosa di diverso da quella famosa frase che era il piccolo passo un per piccolo me, passo per un passo, uomo, un grande passo per l'umanità. Cosa avreste detto voi? E l'abbiamo fatto anche noi. Il concorso di New Scientist, non sappiamo ancora i risultati. Stanno uscendo in queste ore, quindi magari ve lo daremo nella prossima puntata, sicuramente da lunedì sul nostro sito www.moebiusonline.eu. Benissimo. E quelli che hanno scritto invece al nostro, diciamo, di concorso, noi abbiamo, insomma, mandato tutte queste frasi. Sì, siamo orgogliosi di dire che ne abbiamo ricevute veramente tante e che anche in redazione è stata ardua la scelta del vincitore. Infatti, tant'è che abbiamo deciso di dare un premio a due, cioè un pari merito. Molto diverse fra loro. Esatto, abbiamo deciso di scegliere una un po' più scherzosa e una in realtà un pochino, anzi direi molto più seria. Allora, quella più scherzosa era? Allora, quella più scherzosa era quella di Andrea, che tra l'altro abbiamo cercato di contattare via email. Andrea, se ci stai ascoltando, mettiti in contatto con la redazione perché avremmo voluto invitarti in trasmissione. Ecco, quella di Andrea che dice: adesso mi ammazzo di capriole. Sembra scherzosa, ma in realtà l'abbiamo scelta perché un velo di verità c'è. C'era, perché Buzz Aldrin, che era il secondo dopo Armstrong, come al solito, come buon secondo, quasi nessuno se lo ricorda, viene citato pochissimo, però lui fu preso da un'euforia assolutamente incontenibile, al punto che da Houston gli dovettero dire: Aldrin, per favore stai calmo, perché lui faceva cominciò a saltare. E c'era oggettivamente, ci fu in un certo momento oggettivamente il pericolo che lui potesse ribaltarsi, insomma cadere, e non era il caso di fare una cosa di questo genere sulla Luna. La seconda frase invece che noi abbiamo scelto, un tantino più seria, esatto, è di Corrado, e anche Corrado abbiamo cercato di invitarlo in trasmissione, ma anche lui non siamo riusciti a metterci in contatto perché probabilmente legge la mail in maniera abbastanza saltuaria. Esatto. Fatti vivo, quindi. Allora la frase di Corrado è: oggi un uomo bianco che calpesta un terreno grigio, domani un uomo nero alla Casa Bianca. Che potrebbe essere una frase profetica e che in quel periodo, nel 1969, avrebbe potuto suscitare non poche turbamenti vari, esatto, negli Stati Uniti e nel mondo intero. Però era una frase che effettivamente avrebbe potuto essere detta. Ecco, queste sono le frasi che noi abbiamo scelto. In realtà abbiamo anche deciso di dare un premio alla critica, poi vi raccontiamo quali sono i premi che si vincono, ma prima abbiamo deciso di commentare questa frase un po' particolare, che appunto secondo noi avrebbe riscosso notevoli turbamenti di varia natura, insieme a chi, Federico? Insieme a Stefano Pistolini, che per Radio 24 è notoriamente il commentatore delle vicende americane. Buonasera Pistolini. Buonasera. Ciao. Buonasera. Allora, secondo te che cosa sarebbe successo? Perché noi abbiamo fatto questa riflessione: l'evento già del primo uomo sulla Luna era sconvolgente, però se avesse detto quella frase forse sarebbe stato ancora tre volte più sconvolgente. Ma sì, credo che sarebbe stato soprattutto poco popolare, insomma, nell'America degli degli anni 60, sicuramente non un pensiero, una provocazione, un messaggio mainstream, come si dice, ma certamente una dichiarazione trasgressiva che sarebbe risuonata in un certo senso quasi preoccupante, no, alle orecchie degli americani del 69. È un'America che guarda la luna, quella lì, ma è un'America proprio all'apice del disastro in Vietnam. C'è appena stato il massacro di Hamburger Hill, no? La collina micidiale su cui la collina che gli americani volevano prendere per far vedere che la potevano prendere, dove ne sono morti a dozzine, insomma, e di conseguenza il come dire, mettere anche sul piatto a bilancia la possibilità di un presidente nero in un'America così destabilizzata, secondo me avrebbe creato soprattutto inquietudine. Beh, quindi conseguenze negative più che profetiche. Ma secondo me sì, perché era... Ci sono molti parallelismi tra l'America del 69 e quella di oggi, che ha trovato una soluzione in una leadership nuova. E il parallelismo principale è quella di una grande sensazione di stanchezza. In realtà sono due paesi in entrambi i casi contraddistinti dal bisogno di trovare delle soluzioni. In quel caso la soluzione doveva essere essenzialmente ristabilire un senso domestico, no, alla politica della Casa Bianca, al di fuori questa follia di 600.000 soldati in Vietnam con perdite spaventose. Insomma, in questo caso sappiamo bene di quale crisi si tratta e delle per ora relativa inefficacia dei provvedimenti che vengono presi. Insomma, Neil Armstrong sarebbe stato il primo uomo a mettere il piede sulla Luna e probabilmente anche il primo a restarci. Esatto. Non avrebbero fatto rientrare. Se hai idee di questo genere, sì. Ne riparliamo fra 40 anni. Sì, sì, sarebbe rientrato Aldrin, al quale effettivamente avrebbero fatto tante feste. È stata una rincorsa eccezionale quella che ha prodotto l'elezione di Obama, insomma, ancora all'altezza del 2006-2007. Io ho incontrato parecchi di quelli che la sanno lunga in America, che dicevano sì, ma vedrai, alla fine poi qualcosa succederà. Invece è successo il contrario. Ecco Stefano, approfittiamo della tua presenza e ti rilanciamo anche la frase che secondo noi ha vinto un premio fuori concorso, perché è giunta purtroppo in ritardo. Questa è così, la critica. Esatto, un po' come si dice, il premio della critica. Te la cito: un uomo poco abbronzato sta camminando sulla luna, Michael Jackson. Ha messo insieme tutto, un po' di polemiche, un po' di giochi di parole, Moonwalker, che è il famoso passo di Michael Jackson, ovviamente la morte di Michael Jackson e sicuramente un forte riferimento ancora all'America. Sì, ma questo è interessante, perché la relazione tra quello che ha fatto in modo più o meno consapevole Michael Jackson e quello che ha fatto in modo perfettamente consapevole Obama 30 anni dopo è interessante. La provocazione razziale lanciata da Michael Jackson, facendola filtrare attraverso la rete, no? La griglia di comprensione e di sospetto della società americana, secondo me è tutta una storia che andrà rianalizzata quando saranno finiti i pettegolezzi sulla sua morte. Sicuramente c'è un filo rosso ed è interessante anche legarlo all'apertura dell'altra faccia della luna, insomma, che è stata anche poi in un altro senso un modo dell'America di riscoprirsi, di ripartire. Va bene, grazie Stefano, allora ti lasciamo al tuo Jefferson. Certo, grazie. Ciao voi. Stefano, buonasera. Ciao. Non abbiamo detto allora che cosa i nostri ascoltatori vincono. Vincono un film rarissimo del 1950. Un DVD, Uomini sulla Luna, Destination Moon, come titolo originale. Il film è una pura follia, c'è uno sbarco sulla Luna che è da morire da ridere, sì. Con scaletta quasi di corda. Surreale. E poi però c'è anche tutta una parte iniziale del film che è assolutamente immersa nel periodo della Guerra Fredda, per cui bisogna andare sulla Luna perché sennò c'è il rischio che ci vadano i russi e bombardino la Terra dalla Luna. Insomma, un film assolutamente unico, Uomini sulla Luna. Ecco, vogliamo specificare che questo è il nostro piccolo premio, poi in realtà le nostre frasi sono state inviate alla redazione di New Scientist, verranno selezionate e il vincitore della rivista vincerà, appunto, come dicevamo all'inizio, un pezzetto di luna, pezzo di suono lunare. Qualcosa. Chissà se qualcosa arriverà anche alla nostra redazione. Vabbè, vediamo. Ancora un po' di luna per dirvi: asta imperdibile a New York, prendete il primo aereo disponibile o voi collezionisti di cose astrali, è aperta da poche ore una vendita di oggetti appartenuti ad astronauti, il che getta una strana luce sulle condizioni economiche di questi ragazzi. Alcuni di loro ormai sono largamente in pensione, insomma, come li tratta la NASA, ma lasciamo perdere questo tipo di considerazioni. Si tratta di 400 pezzi di vario tipo e 50 di questi provengono proprio dalla missione Apollo 11, quella di Armstrong e Aldrin. Voi che siete in ascolto starete pensando a gagliardetti di stoffa, qualche patacchina applicata sulle tute, c'è ben altro invece, per esempio i fogli sui quali erano state scritte tutte le fasi della procedura finale di allunaggio, quelle fasi drammatiche cui abbiamo già accennato, perché sembrava proprio che l'EM stesse effettuando un pessimo allunaggio. Quei fogli che i due astronauti tenevano in mano oggi sono in vendita, si parte da $125,000. Erano di proprietà di Aldrin, il quale li ha firmati tutti uno per uno per certificare che sono veri. Domanda, ma questa roba non poteva stare in un museo? Va bene, altri fogli preziosi sono quelli che documentano le prime operazioni sulla Luna, la discesa di Armstrong e poi quella di Aldrin 19 minuti dopo. Questi fogli ci dicono quindi che c'erano delle procedure molto precise, con firme e controfirme. È abbastanza curiosa, no, questa burocrazia spaziale. Con questi fogli siamo intorno ai $45,000-$50,000 per la vendita. Continuando con i fogli procedurali, preziosissimi sono quelli della missione Apollo 16, riguardano le operazioni compiute durante un'uscita sul suolo lunare, durata ben 12 ore, e infatti sui fogli è visibile in più punti la famosa appiccicosa polvere lunare. Qui siamo a cifre ben più alte, è la polvere che fa salire i prezzi, siamo fra i $200,000 and $300,000. A proposito di polvere, ecco, messa in asta una spazzola che gli astronauti hanno usato per togliersela di dosso, questa polvere, dalle tute. La spazzola arriva da Apollo 14 ed era di proprietà dell'astronauta Alan Shepard, che potrebbe incassare $175,000. Con $40,000 potreste portarvi via un contenitore per pellicola cinematografica che è stato sulla Luna con Apollo 15, e anche qui c'è molta polvere, però insomma quella dei fogli a quanto pare vale di più. Con cifre abbordabili intorno ai $3,000 or $5,000 si può prendere una borsa per raccogliere sassi lunari che però non è stata sulla Luna. Sì, c'è una considerazione finale da fare, è un anno duro il 2009, quindi perché escludere che anche alcuni astronauti abbiano bisogno di liquidità? Ciò non toglie che la coincidenza di quest'asta con il quarantennale dello sbarco sulla Luna è un po' tristanzuola. Quello che si può sperare, seguiremo l'iniziativa, è che a comprare questi reperti sia qualche museo americano, ma non è invece affatto improbabile che pattuglie di motivati collezionisti, il bottino è certamente di grande rilievo, come dar loro torto, pattuglie provviste di robuste doti monetarie si siano già mobilitate. Sul nostro sito www.moebiusonline.eu potete trovare il link al sito dell'iniziativa con tanto di catalogo fotografico e relativi prezzi. Moebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. 40 anni dopo si parla ancora di missioni verso la Luna. C'è un progetto americano lanciato sotto l'amministrazione Bush, c'è anche un progetto cinese, ma ci sono molti scettici e ci sono anche altre idee per missioni spaziali ritenute più interessanti. Di tutto ciò vi parla Maurizio Menis. Non voglio mica la Luna. A sentire i governi di Stati Uniti e anche della Cina, prima o poi, insomma, l'intenzione è quella di tornare sulla Luna. Buona parte della comunità scientifica, però, non pensa che sia una grande idea. Men che meno lo pensa Giovanni Bignami, ex presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana e ultimamente anche uomo copertina di Wired, all'insegna proprio del no alla Luna. Buonasera Bignami. Buonasera. Dunque, lei su Wired ha citato ben 10 ragioni per cui tornare sulla Luna sarebbe inutile o comunque sconsigliabile. Non le chiedo di ripeterle tutte, ma almeno ecco le 3 o 4 più forti. Certo, ma il riassunto della cosa è presto fatto. Non si va sulla Luna per farci qualcosa che abbiamo già fatto, e per il momento non sono ancora saltate fuori delle cose drammaticamente nuove. Non si va, come dire, tanto per andarci, cioè tanto per far vedere che siamo capaci di rifare qualcosa che abbiamo fatto 40 anni fa. Secondo me meno che meno ci si deve andare, perché i cinesi hanno detto che vorranno andarci un giorno. Ecco, e anche tutta questa idea di una base sulla Luna non servirebbe a niente, insomma. Beh, tantomeno in pensare di estrarci qualche minerale. No, quella lì è una bufala pazzesca, come la storia dell'Elio 3, l'idea di fare miniere o distillerie o qualcosa di simile sulla Luna. È assolutamente fuori luogo, e anche una base è fuori luogo per la semplice ragione che alla fine uno si trova a dover spendere molta più energia se vuole andare lontano dalla Terra, dovendosi fermare e ripartire dalla Luna. Quindi come base di lancio, diciamo, sarebbe inutile, perché comunque la forza di gravitazione della Luna è meno della Terra, ma insomma non è mica indifferente. Ma naturalmente esiste, certamente, e per di più bisogna spendere energia anche per atterrare sulla Luna. È certo. Ecco, senta, e anche a livello di scienza c'è poco, mi sembra di capire, che non sappiamo della Luna. Infatti, attenzione, a livello di scienza ovviamente si trovano sempre cose interessanti, è sempre un rapporto costi-benefici. Certo. Voglio dire, io ho interrogato centinaia di planetologi in Europa quando stavo organizzando il piano per il futuro dello spazio europeo, e nessuno di questi ha messo come priorità la Luna. È evidente che moltissimi altri oggetti nel sistema solare, per esempio i satelliti di Giove, dico per fare un esempio, ma anche le comete, gli asteroidi, sono molto più gettonati, molto più interessanti della Luna, che in fondo, adesso abbiamo capito, è un vecchio pezzo di terra sbalzato via all'inizio del sistema solare, e vabbè, ha un interesse molto minore di altri corpi del sistema solare. I cinesi invece sembrano abbastanza decisi ad andare sulla Luna. Come mai, secondo lei, e che cosa hanno da guadagnarci? È evidente che per i cinesi invece sarebbe un guadagno di immagine enorme. Andare sulla Luna è estremamente difficile, portare degli esseri umani sulla Luna e riportarli indietro, non fare delle missioni automatiche, dobbiamo distinguere con attenzione, fare delle missioni robotiche automatiche sulla Luna è già stato fatto decine di volte ed è relativamente facile. Comunque i russi l'hanno fatto la prima volta nel 1959, non ieri, 50 anni fa, no, quindi ecco, tutto un altro discorso. Invece portare degli esseri umani e riportarli indietro è estremamente difficile, e i cinesi vogliono farlo, perché dimostrare di saperlo fare dimostra una padronanza totale della propulsione, dei sistemi di sopravvivenza, delle telecomunicazioni, insomma. Comunque, insomma, non si va al di là di una questione d'immagine, di una scelta di comunicazione verso il mondo, ma anche probabilmente verso il popolo cinese, perché è un regime molto attento, ecco, a questi aspetti. Senta, ma c'è qualche invece indiscrezione su come pensano operativamente di realizzare questa missione? Cosa c'è in programma? Una coppia delle vecchie missioni Apollo, o c'è qualche elemento innovativo in vista? Penso sia molto più probabile il primo caso. Su tempi scala brevi, cioè, non si può che rifare quello che fu fatto ai tempi di Apollo. La propulsione non può che essere chimica, cioè un razzone tipo Saturno 5, e l'architettura della missione non può essere molto diversa. Le variabili sono se fare un'orbita di parcheggio intorno alla Terra oppure un'orbita di parcheggio intorno alla Luna, come è stato fatto per Apollo, ma la differenza in fondo è un dettaglio. Io credo che i cinesi stiano cercando di rifare Apollo, scoprendo quanto è difficile rifarlo. Secondo me ci vorrà molto tempo prima che riescano. Lei ha intervistato di recente anche Buzz Aldrin, che è stato il secondo uomo a mettere piede sulla Luna, e che peraltro non è uno che rilascia facilmente interviste, credo. No, non è uno che rilascia facilmente interviste, però qualcuno ogni tanto, mentre Neil Armstrong proprio assolutamente, ma Buzz l'ho conosciuto diverse volte alla NASA, è una persona fatta molto alla sua maniera, però ha anche delle idee molto, molto moderne. Ecco, infatti io verrei proprio alle idee di Aldrin. Lui propone in questa intervista due alternative molto interessanti e effettivamente originali alla Luna, cioè l'idea di portare un equipaggio umano su degli asteroidi o su delle comete nel momento in cui, ecco, questi oggetti passano vicini, relativamente vicini alla Terra. Lei cosa ne pensa? Oh, l'idea è splendida e io la condivido, come dire, da sempre. Alla base naturalmente c'è un nuovo modello di propulsione, questo è una cosa che è un po' sottintesa ma è giusto dirla in modo esplicito. La propulsione chimica di tipo classico, cioè appunto il mitico razzone tipo Saturno 5, ci porta al massimo sulla Luna. A noi questo adesso non interessa più. Dobbiamo decidere che noi siamo imprigionati dalla Luna, ma dobbiamo liberarci e pensare molto più in grande. Però per andare al di là della Luna dobbiamo per prima cosa inventare un nuovo sistema di propulsione, che deve essere necessariamente nucleare. Poi dobbiamo creare una nuova base di partenza, che potrebbe essere in orbita intorno alla Terra o meglio ancora forse nel punto di librazione Lagrangiano, diciamo vicino alla Terra o tra la Terra e la Luna, è un dettaglio tecnico. Da lì ha senso fare delle sortite. Ecco, questo punto Lagrangiano è un punto in cui le forze di gravità dei vari corpi si annullano, ecco. Per cui non c'è questa spesa energetica da fare per staccarsi da lì. Bravissimo, proprio così, è un posto ideale perché si arriva lì e ci si ferma sospesi, librati appunto in mezzo ai vari corpi del sistema solare e da lì si riparte senza dover vincere una gravità, quindi molto interessante come posto dove costruire una base, che tra l'altro è più facile costruirla lì che costruirla sulla Luna naturalmente. E poi, ripeto, si può tentare di fare una sortita di qualche mese per andare a catturare un asteroide di passaggio, ce ne sono sempre, e quello anche scientificamente, oltre che umanamente, sarebbe molto più interessante. Va bene, grazie Bignami. La ringrazio. Il casco da football americano oppure il trapo a batteria, ma il velcro no, mentre molti pensano di sì. Che cosa vi racconta ora Chiara Albicocco? Vi racconta delle innovazioni che sono nate dalle imprese spaziali, a cominciare proprio da quelle lunari. Da bambini tutti abbiamo odiato l'apparecchio per i denti, soprattutto quello di ceramica, fatto a placchette attaccate direttamente sul dente. Ecco, non immaginerete mai che quella stessa ceramica è stata impiegata per la prima volta come rivestimento per le navicelle spaziali. Questo è solo uno dei tanti esempi di come la tecnologia studiata e progettata per le missioni spaziali possa arrivare anche sulla Terra, nelle nostre case, fra le nostre mani e addirittura nelle nostre bocche. Ora pensate ai caschi da motociclista. Dietro alla loro progettazione c'è lo studio svolto da fior fior di ingegneri che hanno messo a punto il casco spaziale, quello indossato dagli astronauti durante le missioni, composto da 3 strati di una speciale plastica, con la visiera protettiva e con la superficie antigraffio. E sempre a proposito di caschi, anche l'elmetto da football americano ha una storia evolutiva legata allo spazio. Infatti la speciale schiuma che c'è all'interno e che serve per attutire i colpi e gli urti dei giocatori è stata in realtà concepita per rendere più confortevoli i sedili dello shuttle durante la fase di lancio. E ancora è grazie agli ingegneri della NASA che la sala pesi della vostra palestra vi permette di mantenervi in forma. Sì, perché tra le attrezzature che utilizzate e in particolare i pesi sono stati progettati per l'allenamento dei muscoli degli astronauti stessi. Inutile dirvi che il joystick dei videogiochi viene concepito prima di tutto per la guida del Lunar Roving Vehicle, la navicella della missione Apollo che servì per ispezionare il suolo lunare. E solo in un secondo momento venne poi utilizzato dai ragazzi per muovere sugli schermi dei PC il personaggio di un videogame. Forse la tecnologia che più di ogni altra ha rivoluzionato e sta rivoluzionando le nostre vite è la tecnologia wireless. Il trapano a batteria, ad esempio, che non necessita della corrente elettrica, viene usato per la riparazione della navicella spaziale, ma è stato in realtà realizzato per la prima volta per permettere agli astronauti di portare a terra un souvenir, cioè per forare ed estrarre un pezzetto di suolo lunare. Oggi senza questa ingegnosa trovata non potremmo utilizzare i PC portatili, l'aspirabriciole e come dimenticare i nostri inseparabili telefonini. Ricerche infinite si sono svolte anche sui materiali tessili da portare nello spazio e che si traducono in vere e proprie scoperte utilissime anche per l'abbigliamento terrestre. Qualche esempio, ecco, le tute dei pompieri, ignifughe e resistenti alle condizioni più estreme, hanno preso in prestito le tecnologie di protezione del corpo delle tute astronautiche. Ma non finisce qui. Anche i materiali che permettono alle tute spaziali di essere isolanti e traspiranti, allo stesso tempo vengono impiegati anche per le tende da campeggio, utilizzate nelle situazioni di emergenza dalla protezione civile. E infine il polipropilene della biancheria degli astronauti, che raffredda la superficie corporea e permette l'evaporazione del sudore, ha ispirato la realizzazione di abbigliamenti da lavoro, come le uniformi della polizia, ma anche dei piloti aeronautici e persino quelle dei fornai. Al contrario, erroneamente si pensa che il velcro sia nato nei laboratori della NASA per la chiusura delle tute spaziali. Ecco, di sicuro i bottoni non sono consoni per un viaggio su Marte, provate a pensare se dovesse staccarsene uno, ago e filo in microgravità non so bene come si comporterebbero. Ma, dicevo, il velcro si pensa sia stato progettato per lo spazio. Invece no, è stato inventato da un ingegnere svizzero nel 1941 al ritorno da una passeggiata in campagna. Infatti, l'ingegnere è arrivato a casa si accorse di avere dei minuscoli fiori rossi attaccati alla giacca e, colto dalla curiosità, li analizzò al microscopio e cosa scoprì? Che erano dei fiori che avevano degli uncini e per questo che si erano attaccati all'abbigliamento. Lui li studiò e decise di riprodurli artificialmente con il nylon e l'invenzione, devo dire, ebbe successo, fu brevettata nel 1955. E chissà che tra poco non troveremo sulle nostre tavole sale e pepe in formato liquido, proprio come quello che utilizzano gli astronauti. E sì, perché non possiamo permetterci che la caduta accidentale di qualche granello di sale possa ostruire le preziosissime attrezzature spaziali o che un pizzico di sale finisca nel naso degli astronauti, provocando fastidiosissime conseguenze. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo alla soluzione del quiz. Vi ricordate la differenza fra l'attrito in acqua e l'attrito sulla Terra? C'erano tre risposte. La prima diceva in acqua non si sviluppa calore. No, sbagliato, l'attrito in acqua sviluppa poco, ma lo sviluppa del calore. La seconda era l'attrito in acqua è molto inferiore a quello sulla Terra. Non è vero, dipende dalle situazioni. Invece l'attrito in acqua è fortemente relativo alla massa d'acqua che il mezzo deve spostare. Quando la barca va veloce ne sposta tanta di acqua, e quindi l'attrito aumenta, ci vuole più forza. Sulla Terra è l'opposto. Il fenomeno non è banale da spiegare solo a parole, lo si vede bene usando un po' di formule, ma si può in qualche modo capire pensando che in un fluido il corpo deve spostare la superficie sulla quale fa attrito, mentre un pneumatico, insomma, non deve spostare l'asfalto. Allo Smithsonian Museum a Washington l'anno prossimo si aprirà una sezione che quasi certamente susciterà grande interesse, molta meraviglia da parte delle centinaia di migliaia di persone che ogni anno visitano questo museo e però anche molte critiche. In una serie di sale infatti saranno esposte delle ricostruzioni molto accurate di tutta la serie di ominidi che hanno segnato il lungo percorso evolutivo della nostra specie. Si partirà dai nostri cugini più lontani circa 6 milioni di anni fa per arrivare ai cosiddetti uomini delle caverne, le popolazioni che ci hanno lasciato tanti segni della loro vita e dei loro rituali in molte caverne appunto europee, con quelle pareti densamente occupate da dipinti di animali e vegetazione, e qui siamo da 300 a 50.000 anni fa. Vi ho parlato di probabili entusiasmi e altrettanto probabili critiche. Il motivo di questa divaricazione è originato dalla qualità delle ricostruzioni. Si sta lavorando a dei modelli a grandezza naturale molto accurati, anzi enormemente accurati, tali da poter essere interpretati come degli esseri viventi se non ci si accorgesse della ovvia fissità dei modelli. La sensazione che si avrà quindi entrando nelle sale dello Smithsonian Museum sarà quella di incontrare una delegazione di antenati. Ho visto alcune fotografie di questi modelli, sono apparse nell'ultimo numero di Science e vi assicuro che il realismo è impressionante. Ma proprio qui sta il punto. Alcuni paleontologi dicono che non si hanno dati a sufficienza perché si possa permettere questo realismo. È vero che negli ultimi anni una serie di tecniche, di scienze diverse e incrociate hanno consentito grandi avanzamenti nella capacità di risalire alle forme del corpo, del volto per esempio, a partire da resti ossei anche largamente incompleti. Anche gli anatomopatologi che lavorano nel campo della criminologia hanno dato importanti contributi in questa direzione. Ma questi avanzamenti bastano? Ci sono dubbi. Si ragioni per esempio su questo fatto. Possiamo ricostruire alcuni aspetti fondamentali di un nostro antenato di un milione di anni fa, ma possiamo capire com'era distribuito il grasso? Può essere benissimo che certe concentrazioni di grasso nelle natiche o nella pancia o sulle cosce fossero pronunciate e assolutamente fisiologiche. Non si dividevano, insomma, tra grassottelli che dovevano fare la dieta e altri snelli e palestrati, come intendiamo noi oggi. Questi particolari, che però sono in grado di influire significativamente sull'immagine complessiva, non sono conoscibili, dicono alcuni ricercatori. Un altro aspetto è quello dell'espressività. Può sembrare strano, ma se ci pensiamo un attimo, non lo è. C'è una storia dell'espressività che è legata a molti fattori. Qualcosa lo si nota pure oggi, perché ci sono delle popolazioni che hanno alcune modalità espressive che sono tipiche, molto specifiche. Ma se torniamo indietro di 400.000 anni, sull'espressività interveniva anche una forma del volto che certamente aveva un suo peso. Se già conosciamo con qualche approssimazione la struttura di questo volto, beh, con l'espressione probabilmente siamo ancora più a rischio. E questi modelli ovviamente non sono tutti, sarebbe tremendo con delle facce congelate e prive di alcuna espressione. C'è anche da dire tuttavia che anche i critici delle nuove sale dello Smithsonian sostengono che l'operazione ha una sua importanza. Attirerà molto pubblico, farà sviluppare l'interesse per la storia della nostra specie e quindi sarà comunque un prodotto culturale importante, con qualche imprecisione, ma importante. A Spoleto Scienza quest'anno si è discusso di energia. Ricordo che Spoleto Scienza è un appuntamento che ricorre da più di 20 anni ed è progettato e organizzato dalla Fondazione Sigma Tau, promotrice anche della nostra trasmissione, Mebius. Si è parlato di energia, vi dicevo, anche nel senso più classico del termine, cioè le fonti energetiche, l'elettricità, il problema dei cambiamenti climatici, ma nella giornata di sabato scorso Spoleto Scienza ha proposto un taglio molto particolare a questo tema dell'energia, e cioè le relazioni che esistono fra il consumo e le esigenze di approvvigionamento energetico e gli organismi viventi, in particolare il corpo umano, la nostra specie. Osservando le cose da questo punto di vista, ha consentito di compiere un percorso fatto di immagini e problemi certamente non consueti. Un tema particolare è stato quello del cambiamento. Tutta la vita è una macchina che con grande efficienza pratica il cambiamento. Menotti Calvani, medico in particolare farmacologo e tossicologo, ha delineato con pochi numeri efficaci un aspetto fondamentale che riguarda il funzionamento del nostro corpo, ovvero il costante ricambio cellulare delle sue varie parti. Il cuore, sono pochi quelli che sanno che impiega circa 15 giorni, ma si rinnova completamente. È un organo che lavora 24 ore su 24, noi ci contiamo su questa sua coerenza. E se immaginiamo di fare sui 70 battiti al minuto, si contrae più di 40.000 volte in una giornata. E quindi deve buttare via i pezzi di ricambio che non vanno. Quindi ogni 15 giorni noi abbiamo un cuore nuovo. Il muscolo impiega 30-40 giorni, molti allenatori delle squadre di Serie A non lo sanno questa cosa qui, infatti abbiamo una quantità di gente che si fa male ad ogni piè spinto, però anche il muscolo rinnova se stesso. Lo scheletro impiega circa 10 anni per rinnovarsi, però ogni giorno smonta e rimonta, millimetri cubici ogni giorno sono nuovi. Nell'intestino, ogni minuto, nel piccolo intestino ci sono 20-50 milioni di cellule che vengono completamente rinnovate e nel colon ci sono 2-5 milioni di cellule che ogni minuto si cambiano. Allora, cambiare significa che altre cellule prenderanno il loro posto e significa anche una quantità di energia che deve essere messa perché nulla si crea e nulla si distrugge. Noi, singoli soggetti, non potremmo far altro, cioè abbiamo la percezione di noi stessi e pur con il passare del tempo ci sentiamo qualcosa di abbastanza preciso, ma la vita nella sua globalità è qualcosa di ben più complesso. Jean-Claude Ameseni, immunologo francese, ha dato una sua prima definizione di vita. We are living beings, so we are open systems which are in constant interaction with the environment. Siamo esseri viventi, dice Ameseni, ma siamo sistemi aperti, in costante relazione con l'ambiente, dal quale prendiamo e poi consumiamo energia, e siamo sempre in una condizione di non equilibrio, e questa è la vita. Infatti questo è il punto di vista non banale da accettare, perché, dice ancora Jean-Claude Ameseni, believe our feeling of identity is permanent, but our identity is permanently changing. And memory, I think, says something about this change. La nostra sensazione di avere un'identità è permanente, dice Ameseni, ma in realtà la nostra identità, che è connessa al corpo, cambia costantemente. La memoria ci dice qualcosa di interessante rispetto a questo cambiamento. La memoria è il segno degli eventi passati, ma è anche il segno di qualcosa che ci ha cambiato, perché passa attraverso un cambiamento del nostro sistema neuronale. In some ways, the one that remembers an event is different from the one. Quindi se ricordo qualcosa è perché qualcosa è cambiato e in un certo senso il soggetto che ricorda un evento è diverso dal soggetto che ha vissuto quell'evento, perché questo evento l'ha fatto diventare un altro. E quindi la memoria è una prova evidente del fatto che io continuo a diventare costantemente qualcos'altro. Al termine della sua conferenza gli ho chiesto: c'è una considerazione singolare da fare. Siamo molto impegnati come specie a costruire un modo di vivere che definiamo sostenibile, allo stesso tempo la vita invece è un bel po' sprecona, per dirla in breve. So when we speak of sustainability, we have to think that what we speak really of are the conditions that allow change, which means. Quando parliamo di sostenibilità, noi dobbiamo essere consapevoli che stiamo parlando di condizioni che permettono il cambiamento. Sostenibilità significa preservare quelle condizioni che consentono che il domani sia diverso dall'oggi, ci dice Amezen. In sintesi, dunque, se alteriamo il presente con azioni che modificano le condizioni naturali del cambiamento, ecco che il domani non è libero di esprimersi come dovrebbe. Al centro di questi discorsi c'è un concetto di fondo. Dobbiamo guardare la vita come un evento che continua ad esserci da milioni di anni. Dicevo prima che noi ci sentiamo soggettivamente una persona, ma qui si ragiona sul fatto che l'insieme di tutta la vita è come se fosse una persona che esiste da centinaia di milioni di anni e che continua a cambiare. Certo, questa persona è fatta da singole unità, i cui destini individuali però non sono necessariamente l'interesse principale del superorganismo, se vogliamo chiamarlo così. Sentite per esempio cosa dice Gilberto Corbellini, storico della medicina, a proposito della malattia. Credo che un altro concetto molto importante che Darwin ci ha lasciato e che ha scritto in un libro del 1868 è che la salute non è un obiettivo dell'evoluzione biologica e della selezione naturale, cioè che tutto sommato l'obiettivo quantomeno l'evoluzione procede attraverso una serie di meccanismi in cui la sopravvivenza è la conseguenza di un vantaggio selettivo, e vantaggio selettivo vuol dire un vantaggio riproduttivo, la capacità di lasciare un maggior numero di discendenti, quindi trasmettere un maggior numero dei propri geni, e questo può avvenire anche, diciamo, se si hanno caratteristiche che non sono poi propriamente legate alla salute. L'esempio tipico è che i portatori di un tratto falcemico, di un tratto talassemico in un ambiente malarico sono avvantaggiati da un punto di vista riproduttivo rispetto delle persone che hanno l'emoglobina, diciamo, perfettamente normale. E in questa lunghissima storia evolutiva viene pure fuori che alcuni cambiamenti che portano vantaggi in un punto non sono necessariamente vantaggi in assoluto. Corbellini ci suggerisce per esempio che il settore specie umana di quel superorganismo, quando si è messo a camminare su due gambe, beh, non ha portato a casa soltanto vantaggi. Ci sono anche altre porzioni del nostro corpo che non si presentano come il meglio sul mercato dell'efficienza. Ho chiesto a Corbellini, si sarebbe potuto avere appunto di meglio? Ma diciamo che la maggior parte delle soluzioni sono un, forse non il miglior, ma un buon compromesso che è stato trovato. Il miglior compromesso è sempre quello che uno può valutare a posteriori, una volta che fa i conti su quello, diciamo, che avrebbe potuto essere la soluzione del problema, visto sempre a posteriori, ma a partire da quelle condizioni, considerando che chi doveva risolvere il problema era la selezione naturale e non un immaginario, diciamo, progettista che poteva cambiare completamente il genoma, aggiungere nuovi geni o prendere geni da altri organismi per risolvere quel tipo di problema, beh, è sicuramente il miglior compromesso, in questo senso sì. Però, tanto per fare un esempio, se la posizione retta ci ha dato dei grandissimi risultati, però certo la nostra spina dorsale non è fatta per stare su due gambe. No, la nostra spina dorsale non è fatta per portare un carico, si concentra in gran parte su una zona molto ristretta, diciamo, quindi un carico la nostra spina dorsale è stata progettata per portare un carico che viene trasportato su quattro arti, mentre nel momento in cui è stata raddrizzata tutto quanto, diciamo, deve essere portato su due soli arti, e questo naturalmente a noi dà tanti problemi con i mal di schiena, dà tanti problemi appunto con le ernie del disco, insomma, che sono una delle patologie più diffuse al mondo e nella società occidentale. E con queste immagini inconsuete sulla vita si chiude questa puntata di Möbius. Buona serata a tutti e a tutte, e ci sentiamo la prossima settimana. Radio 24 e Fondazione Sigma Tau vi hanno presentato Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.